Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria: si discute, ma insomma in maniera molto molto così dialettica, condono sì, condono no, in attesa del disegno di legge sviluppo. Il sottosegretario dell'economia Luigi Casero oggi a Milano ha detto ma il condono non è praticabile. E il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befra, ha detto nessuno ha chiesto uno studio a noi dell'Agenzia delle Entrate. Su questo andremo anche abbastanza rapidi, mi sembra che sia così, dialettica politica, chiamiamola in modo nobile. Però di questo insomma avremo un'apertura del programma su questo, ma ripeto, non faremo nessun approfondimento. La borsa invece, allora, grazie all'ascoltatore che dice Barisoni di borsa, appena iniziato il programma, mamma mia, di borsa non capisci proprio niente. Mercoledì era un rimbalzo tecnico, quelli di giovedì, venerdì e oggi. Allora, andiamo subito sulla borsa. La borsa va molto bene anche oggi, più 3%, Milano, Parigi più 2%, Francoforte più 3,13%, Londra più 1,80%. Mercoledì confermo che l'abbiamo definito un rimbalzo tecnico perché obiettivamente dopo due giorni di cali pesanti e una settimana altrettanto pesante non si poteva definire altrimenti. Ricordo anche che giovedì abbiamo iniziato a dire, e soprattutto venerdì, che a questo punto il rialzo prendeva più consistenza. Oggi mi sembra di poter dire, con buona pace dell'ascoltatore, che a questo punto la borsa, e lo scrive anche oggi Walter Ioffi su Sole 24 Ore, potrebbe aver cambiato marcia, aver cambiato segno. Anche oggi infatti tutti i mercati sono positivi, va molto bene l'America, più 2,30%. Ma l'euro è in rafforzamento a 1,3666, probabilmente, forse la scaramanzia è d'obbligo in questi casi, stiamo assistendo a un giro di boa. UniCredit più 8,20%, e ne parleremo chiaramente nel corso dei mercati, Fiat più 5,74%, Prismian più 5,40%, Buzzi Unicem più 5%, ST Microelectronics più 4,90%, Saipem più 4,60%, Atlantia più 4%, Intesa San Paolo più 4%, Pirelli più 3,70%, Finmeccanica più 3,70% anch'essa, come Mediaset, Fiat più 3,40%, come Tod's, Banco Popolare più 3,30%, Exor più 3% come Impregilo. E qui mi fermo, di negativo non c'è nulla, il titolo che guadagna meno è il Monte dei Paschi più 0,22%, Popolare Emilia Romagna più 0,75%, Popolare Milano più 0,80% negativo tra i titoli e maggiore capitalizzazione, intendevo dire chiaramente. E forse il Gallo oggi, per quanto noi siamo un po' scaramantici, ma insomma mercoledì, giovedì, venerdì e lunedì è il quarto rialzo consecutivo, Gallo sia. Le cose vanno male in borsa, non voglio sentire critiche al 349-238-6666. Invece, per quello che riguarda la cronaca, sì, ci sono anche le dichiarazioni di Giovanardi sull'utilizzo di stupefacenti da parte, bisognerebbe fare il controllo, il test antidroga a chi opera in borsa. Devo dire che la frase può sembrare così estemporanea, come alcune volte capita, però non è così priva di fondamento, Ci sono stati infatti molti studi negli Stati Uniti sulle conseguenze dell'utilizzo di cocaina da parte degli operatori di borsa. Ora, prima di tutto sono comunque una minoranza e non la maggioranza quelli che la utilizzano, però è vero, ed è dimostrato da studi clinici e scientifici, che l'utilizzo di cocaina, di sostanze comunque anfetaminiche da parte degli operatori di borsa, tende ad abbassare notevolmente la soglia del rischio, la percezione di quello che è il rischio, aumentare il senso di invincibilità e sostanzialmente capacità di andare against all odds, come dicono gli inglesi, quindi contro ogni sorte avversa. Restiamo sui mercati. Allora, per quello che riguarda il petrolio, in rialzo $84,6 al barile. Anche l'oro è in leggero rialzo, $1,641 l'oncia. Il premio all'economia, lo avete sentito dai nostri GR, l'hanno vinto due americani. Si tratta di Thomas Sargent e Christopher Sims. Per il lavoro condotto sulle relazioni tra misure politiche e il loro impatto sull'economia. È un premio Nobel dato sulla macroeconomia e hanno sviluppato, dice l'Accademia delle Scienze di Svezia, hanno sviluppato metodi per rispondere a numerose questioni relative al legame di causalità tra la politica economica e le diverse variabili macroeconomiche come PIL, inflazione, lavoro e investimenti. Insegnano uno a New York, Sargent, e l'altro invece a Princeton, e mi riferisco a Sims. Continuano invece le ipotesi su quanto dovrà montare il salvataggio delle banche europee. Oggi la banca d'affari JP Morgan sostiene che serviranno circa 150 miliardi di euro. Devo dire che in linea con quanto già previsto da altre banche, da altri commentatori, Morgan Stanley, ma non solo, tra i 100 e i 200 miliardi di euro. E poi l'asse franco-tedesco che sta facendo arrabbiare il nostro ministro degli esteri Frattini. Ricorderete che ieri Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, in una conferenza stampa congiunta a Berlino, hanno detto: siamo risoluti, Francia e Germania, nel ricapitalizzare le nostre banche e a trovare una soluzione permanente e globale della crisi entro il prossimo G20, che si riunirà in Francia, a Cannes, a inizio novembre. Ebbene, oggi il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert ha detto che la Francia e la Germania sono coscienti della grande responsabilità che hanno in questo momento, e il ministro Frattini è intervenuto a metà pomeriggio dicendo: noi pensiamo che una situazione globale non si risolva con assi bilaterali, criticando appunto il vertice franco-tedesco. Ha risposto poco fa la Francia dicendo: attenzione, la Francia e la Germania non hanno nessuna vocazione ad essere il direttorio dell'Unione Europea e non agiscono contro gli altri stati membri. Dopodiché è ovvio che Frattini ha ragione da un punto di vista formale, però da un punto di vista sostanziale è inutile girarci attorno. Francia e Germania, come già ai tempi della Grecia, della prima crisi greca, cioè marzo-aprile del 2010, hanno un passo diverso e un peso diverso rispetto all'Italia. Ascoltatori minacciano di tirare il collo al gallo se domani la borsa cala. Aiuto. Andiamo avanti invece. La filiale belga di Dexia. Allora, il governo belga ha fatto un'offerta da 4 miliardi di euro per acquisire tutto il braccio belga della banca franco-belga Dexia. E lo ha confermato il ministro delle finanze belga Reinders in una conferenza stampa. Però a questo punto intanto è chiaro che la banca verrà smembrata in più tronconi. Una banca già salvata nel 2008, e quindi insomma qui perseverano, nel 2008 da Francia e Germania, allora misero Francia e Belgio, €6,5 miliardi di euro. Il titolo ha perso il 73% del suo valore da inizio anno, ha in portafoglio 4 miliardi di euro di titoli greci, il 40% di tutti gli investimenti, che è una cifra spropositata, 35.000 dipendenti e 8 milioni di correntisti. E verrà smembrata nella parte francese, nella parte belga, c'è poi anche la parte lussemburghese, il fondo del Qatar. Vi ricordate che abbiamo avuto ospite il capo economista del fondo sovrano dell'Oman? Cioè, esiste anche il fondo sovrano del Qatar. Vorrebbe comprarsi la parte lussemburghese di Dexia. E allora, volete sentire Giovanardi? Va bene, sottosegretario della Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi è intervenuto oggi nel programma di Klaus Davi, Klaus Condicio, e ha detto: attenzione, ci sono pubblicazioni che collegano il crack di New York all'abuso di droga. Crack di New York, abuso di droga, già è un titolo in sé. Occorre fare i test sulla cocaina anche ai trader, agli operatori di piazza affari. Ho qualche dubbio che un risparmiatore possa affidare i suoi risparmi a una persona se sapesse che questa persona è un alcolizzato, uh-huh, e quindi non è in grado di essere lucido quando fa le scelte. La stessa cosa per il cocainomane, che notoriamente perde il contatto con la realtà. Quindi anche come dipartimento approfondiremo dal punto di vista tecnico questo tipo di proposta, perché fra le altre cose non sono stati, sono stati scritti libri veramente suggestivi che vanno verificati, che collegano il crack della borsa di New York e queste follie della finanza internazionale anche a personaggi che non avevano più la lucidità per controllare i loro comportamenti e naturalmente anche le loro azioni. Sì, ecco, l'unica cosa, ricordiamo al sottosegretario che a Piazza Affari non c'è nessun trader, ci sono gli uffici amministrativi della borsa italiana, ma non è che non c'è più, la sala delle grida non c'è da anni, da decenni, quindi bisognerebbe andare in ogni singola banca o SIM a vedere chi opera, diciamo, compra-vendita dei titoli e fare a lui il test. Auguri. Il condono spunta. Allora, il sottosegretario Casero ha detto non è praticabile. Befera, il numero uno dell'agenzia dell'entrata, ha detto nessuno ci ha chiesto uno studio. Tra l'altro, faccio notare, c'è oggi un bel articolo su Corriere della Sera, se non ricordo male, di Stella, che ricorda come, se si va a vedere la storia dei condoni dal 73 al 2003, lo Stato ha incassato molto meno di quanto non attendesse. Per esempio quello del governo Berlusconi 2003, sanatoria fiscale edilizia, scudo, i miliardi incassati sono stati 26 quelli previsti, ne mancano ancora 4 da incassare. E comunque ricordo anche che ci sono 4 milioni e 400 mila case abusive in Italia e 204 mila di queste case abusive, cioè la metà, sono state costruite dopo l'ultimo condono, quello del 2003. Allora, è inutile dire che poi condono è tombale se poi si riaprono i sarcofagi e si torna a costruire. 200.000 case abusive costruite dopo il condono del 2003. Emma Marcegaglia, presidente Confindustria, sul condono. Non credo che si farà e non lo giudico bene, perché a noi servono manovre strutturali, serve ridurre strutturalmente il deficit e il debito, e poi sarebbe in un momento in cui giustamente noi dobbiamo combattere fortemente l'evasione fiscale, l'illegalità, la logica del condono dà un messaggio assolutamente sbagliato, in un certo senso premia i furbi, e noi abbiamo bisogno invece che tutti paghino le tasse, che tutti rispettano le regole, e quindi non credo che questa sia la scelta giusta. E questa era ieri a Marcegaglia, a Che Tempo Che Fa. E adesso primo tema, vorrei parlare dei settori industriali, visto che oggi c'è una notizia buona che riguarda la nostra produzione industriale, il mese agosto, per cui, però ad agosto più 4,3% rispetto al mese precedente, ed è il maggior aumento mese su mese dal 2000. Allora parliamo di settori produttivi. Parliamone, perché si è chiuso domenica al Salone della Nautica di Genova, e ricordo che l'Italia ha un ruolo di leadership nel settore nautico, e quindi facciamo anche il punto su come va uno dei settori che contribuiscono non poco al nostro export e comunque di punta sul Made in Italy, comunque la si pensi sulla nautica. Onda su onda il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte cattiva. Eh sì, perché il settore vale 3 miliardi e 300 milioni di euro, 2 miliardi della cantieristica, 900 milioni sono gli accessori della nautica, 300 milioni valgono i motori come settore e 170 milioni tutte le operazioni di rimessaggio e riparazioni. E ciò nonostante anche il ruolo di leader che ha l'Italia, i problemi ci sono stati anche in questo settore. Ne parliamo con il presidente dell'UCINA, che è l'Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche, Anton Francesco Albertoni. Buonasera. Buonasera a voi. Tra l'altro avete chiuso il Salone Nautico di Genova, ed è questo il motivo per cui facciamo anche un bilancio del settore, la 51esima edizione, 1300 espositori, di cui quasi uno su tre sono esteri, 2000 barche esposte, di cui 450 in acqua. Come è andato il salone innanzitutto? Ma sostanzialmente il salone ha tenuto, e questo è un gran dato positivo, perché 2010, nel quale le nostre aziende in complesso avevano perso ancora sul 2009 all'incirca il 20%, primi sei mesi di un 2011 dove in effetti sembrava che la discesa si fosse arrestata con qualche punto di crescita, e poi una primavera, un'estate 2011 di nuovo difficile. Pensiamo che nel 2010 il mercato interno è calato del 33%, il mercato in esportazione è salito del 9%, quindi una forbice che si apre sempre più. Meno 33% il mercato nazionale? Meno 33%, esattamente così, è più 9% il mercato in esportazione. Tra l'altro però l'export è quasi il 70% di tutta la produzione nautica italiana, giusto? Sì, è qualcosa di più, un 72-73% di quei 3 miliardi e 4 che lei ricordava vanno oggi in esportazione, e questa è una grandissima sicuramente soddisfazione per il nostro comparto, che con questi numeri si è confermato essere il quinto comparto in esportazione del Made in Italy. L'export delle nostre barche oggi sta andando soprattutto verso i mercati emergenti che però sono mercati distanti per i nostri prodotti. Parliamo del Sud America, in particolare del Brasile, parliamo della Cina, parliamo dell'India. Ecco, l'idea di portare il Salone Nautico di Genova in Cina nasce, immagino, da questa esigenza. Sì, nasce da questa esigenza, nasce da un esame attento che comunque abbiamo fatto. Abbiamo un'industria nautica leader nel mondo, soprattutto per la costruzione delle grandi imbarcazioni oltre i 24 metri. Abbiamo un mercato cinese della nautica che sicuramente non è ancora maturo, che è ancora da capire come impiegare il proprio tempo libero nel fare turismo nautico, che però ha un grande PIL in crescita, ha un reddito pro capite sicuramente anch'esso in crescita, quindi insomma cinesi che cominciano a essere pronti ad avvicinarsi al nostro mondo, e qui quindi un'opportunità nostra di cercare di arrivare primi. Lo strumento che abbiamo immaginato migliore per poter creare una cultura del mare, una cultura del tempo libero indirizzato al mare anche in Cina, è proprio un grande salone nautico, un salone che possa ricalcare la formula del Salone di Genova. Veniamo al mercato nazionale per chiudere, perché insomma quando si parla per esempio di evasione fiscale si dice sempre andate a controllare gli yacht e soprattutto i super yacht. Abbiamo sempre sottolineato come sia assurdo avere 120.000 contribuenti che dichiarano più di 200.000 euro lordi l'anno e avere 94.000 imbarcazioni sopra i 14 metri immatricolate. Questo non sta né in cielo né in terra, e facesse la finanza i controlli con le imbarcazioni grandi. Però attenzione, che quando un mercato crolla da 2,6 miliardi a 1,1 miliardi significa che molti non si sono comprati la barca non sopra i 14 metri ma quella da 6-7 metri, cioè quella che diciamo rappresenta lobby. Però una cosa me la deve spiegare, Albertoni. Lei come si giustifica il fatto che il mercato italiano è crollato da 2 miliardi e 6 a 1 miliardo e 1, però in controtendenza solo gli super yacht, quelli che costano centinaia di miliardi di euro, più 1,3%? Allora, mi dispiace, ma io la devo correggere in maniera profonda, è importante. Mi dica. Allora, intanto le barche in Italia che vengono immatricolate sono poche migliaia. Quindi le barche oltre i 10 metri nel 2010 corrispondono a 2.400. Ma io parlavo del complesso delle barche esistenti in Italia. Sì, perché 2.400 barche in Italia immatricolate nel 2010. Il numero delle 90.000 barche è il parco nautico circolante. Stiamo parlando di 120.000 contribuenti di 2.400 barche. No, no, un attimo. Un attimo, Albertoni, un attimo. Lei ha ragione nel dire 2.400. Però 94.000 yacht sopra i 14 metri non giustificano, allora la dico tutte, di questi 120.000 sopra i 200.000 euro solo 30.000 sono autonomi, gli altri sono pensionati dipendenti, ok? E sappiamo tutti che se guadagni 200.000 euro lordi non te la compri la barca sopra i 14 metri, voilà. Allora, lei sa meglio di me che gli evasori fiscali soprattutto immatricano la barca in Francia o in altri paradisi. Io infatti non ce l'ho con Lucina, ce l'ho con gli evasori. La prego, anche lei. Non confondiamo esatto, i ruoli. Perché io le pago, quindi esatto. Che io sono esatto. Allora, lei però, purtroppo, come si spiega che i super yacht sono cresciuti dell'1,3% in questo paese? Ma non è cresciuta l'immatricolazione dei super yacht, è cresciuta la produzione dei super yacht, però noi li produciamo, siamo leader assoluti con una quota di mercato superiore al 51% nel mondo come produzione. Mm-hmm. Ma li vendiamo all'estero, non li vendiamo in Italia. Allora, per sfatare, diciamo, l'idea che voi c'entrate qualcosa con il mondo invece di chi dichiara 40.000 euro lordi e si permette stili di vita da milioni di euro, lei, se non ricordo, tempo fa disse, insomma, noi con gli evasori non vogliamo avere nulla a che fare. C'è un modo che può suggerire, con maggiori controlli nei porti, visto che tanto, come lei ricordava, le auto, le barche immatricolate in Italia sono pochissime rispetto al circolante, diciamo, no? Prima le voglio ancora dire una cosa, delle 2.400 barche vendute in Italia nel 2010 sopra i 10 metri, il 93% sono state acquistate tramite un contratto di leasing. Eccolo lì. Quindi certo. Ciò significa che, quando compriamo una casa non facciamo il mutuo, mi scusi, sì, certo, è la stessa certo cosa, no? Allora, ciò significa che se io faccio un contratto con una finanziaria per comprare una barca, quindi uso lo strumento del leasing, la barca sarà estremamente riconducibile al proprio proprietario. Esatto. Mi spiego meglio. Questo non è assolutamente un modo per nascondere il bene. Da circa un anno e mezzo noi chiedevamo al dottor Befere, al direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, di emanare una circolare che rispondesse a dei quesiti per noi importantissimi. Ciò finalmente è avvenuto alla vigilia di questo salone nautico, quindi dal 30 di settembre è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate una circolare che risponde a dei quesiti, che sono una quindicina di quesiti, in cui fino a precedentemente a questa circolare purtroppo la normativa italiana non aveva risposto. Le faccio uno degli esempi che ha creato più problemi in assoluto. Non era chiarito se il proprietario della società intestatario della nave potesse utilizzare o meno, noleggiandola, la stessa nave. Finalmente questa circolare chiarisce che il titolare della società può utilizzare la nave a noleggio, stipulando un regolarissimo contratto di noleggio sul quale verrà applicata l'IVA. L'unica cosa che dice la circolare dice che non può essere utilizzata in maniera prevalente, cioè per maggior parte del tempo che questa nave è noleggiata deve essere noleggiata da terzi e non dal titolare. Allora spiego a tutti perché qual era il trucco. Tu intestavi la barca alla società e poi dicevi che tu la utilizzavi a noleggio, no? Magari la società di cui... Ma veramente non era un trucco, veramente la norma italiana non esisteva. Non vabbè, ho capito, però mi scusi Bertoni, stiamo parlando di qualcuno che non è sicuramente lei né le persone che lei rappresenta, di qualcuno che non voleva apparire come il vero proprietario di una barca. Allora, noi, siccome siamo nel paese che ha 200 miliardi di evasione di imponibile evaso, qualcuno mi spieghi perché in Francia si poteva fare e in Italia no. Ho capito, in Francia hanno un terzo della nostra evasione. Sto solo dicendo che questo, no, io lo chiamo trucco perché se tu hai una barca te la intesti, a meno che tu non voglia non risultare al fisco, allora la intesti a una società e poi tu ne diventi il noleggio e tu te la prendi a noleggio. Lei mi sta chiarendo che... Scusi, ma la devo correggere, perché queste, quelle che lei chiama barca, sono navi. Navi, sì. Queste navi sono sempre intestate a società, perché sono navi che hanno decine di persone di equipaggio, che hanno costi di bunkeraggio enormi, di gestione. Però, per concludere, io sono contento che l'Agenzia delle Entrate e Attiva Befra abbiano chiarito alcuni punti che mancavano. Però, Albertoni, così come ho ricordato tutta l'importanza di questo settore, ho ricordato anche l'importanza di non confondere chi produce navi con chi le navi le compra. Lei non mi può però negare che dietro la enorme evasione fiscale di questo paese si nascondono anche situazioni di comodo in cui uno la barca o la nave ce l'ha ma la intesta la società, perché sennò non ci capiamo più su niente. Ma non è che uno evade vabbè perché compra Albertoni, però ma che senso ha che lei difenda, mi scusi, ma lei difenda, lei difenda l'industria nautica. L'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza lo sanno bene che Lucina si è schierata in maniera totale contro questa gente, perché chi ha fatto il furbo c'è stato purtroppo e chi ne ha pagato le conseguenze è stata l'industria nautica, è stato il diportista normale, esatto, quello che ha la passione per il mare, è quello che ha fatto arrabbiare tutti noi e che ha portato il grande danno che ha portato a questo comparto, perché noi siamo un comparto industriale da una parte e di appassionati navigatori, diportisti, turisti nautici dall'altra, e il furbetto deve essere inseguito, colpito e deve pagare se sbaglia. Però tutto ciò è possibile solo se ci sono delle regole chiare. Ah, su questo non ci sono assolutamente dubbi e sono d'accordo con lei nel distinguere sempre tra chi la nave, la barca, la chiami come vuole, la compra per passione, l'abbiamo detto anche prima, e chi invece ha in questo strumento un chiaro, lampante esempio che i 30.000, 50.000, 80.000 euro lordi dichiarati sono evasione allo stato puro. Sono due cose completamente diverse, perché questo è un settore produttivo e c'è chi della barca, a vela o a motore, ha veramente solo passione. Detto questo, se poi con l'Agenzia delle Entrate siete riusciti ad arrivare a un accordo in cui vengono fatti i controlli, si cerchi anche di stanare chi dice che la barca non è sua, è della società e ce l'ha a noleggio ed è solo provvisoriamente, e poi si scopre che tutto attraverso tutto un giro la barca è effettivamente sua, noi siamo più che contenti, perché non ci piace quando un settore viene definito come un settore, diciamo, dove si collocano gli evasori, perché è una cavolata, perché gli evasori vanno stanati e non c'entrano nulla i settori produttivi nel rapporto con gli evasori. In bocca al lupo per il prossimo salone, Presidente. Crepi il lupo, grazie. Onda su onda il mare li porterà alla... E poi c'è chi, adesso è chiaro che leggiamo più gli sms al 349-238-6666, quelli più critici, non i complimenti. Autoincensarsi non serve a nulla, però c'è chi dice, rispetto alle case abusive, 200.000 abitazioni abusive costruite, cioè la metà dopo l'ultimo condono nel 2003, ce ne sono 400.000 di abusive, di cui 200.000 sono state costruite dopo il 2003. Dicevo che c'è chi scrive, meglio costruire case abusive che non costruire, meglio lavoro nero che disoccupati, compiendo due errori macchiani. Il primo di carattere legale, vabbè, allora meglio guadagnare in qualunque modo che non guadagnare, allora giustifichiamo tutto. Ma il secondo, anche di sostanza, cioè guardi che la casa abusiva non è come il lavoro nero, che comunque lavoro, la casa è abusiva o perché viene costruita in zone archeologiche vincolate, quindi distrugge il nostro patrimonio, o viene costruita in zone a rischio, magari anche rischio sismico, e quindi mette a rischio chi ci va a abitare, è abusiva in questo senso, non c'entra nulla col lavoro nero che uno può dire, beh, tutto sommato almeno uno lavora, è una cavolata galattica. Meteo, pubblicità e poi la borsa, 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa, poi passiamo anche un'analisi su quello che sta capitando sui mercati, molto più tranquilli, devo dire. Vorrei fare qualche gesto scaramantico, perché spero poi di non essere sconfessato in settimana, però molto più tranquilli. E c'entra anche l'asse Merkel-Sarkozy, con buona pace del nostro ministro Frattini, che si è un po' seccato oggi per il direttorio, ma insomma, quelli sono paesi che pesano e che da sempre sono attivi negli accordi internazionali a partire dalla crisi greca. Non parliamo più di evasione fiscale, faccio solo notare che a chi suggerisce di dare le multe in base al reddito è una tesi che non può funzionare in questo paese dove l'evasione fiscale è così alta. Andresti a multare di più chi dichiara tutto la fonte e ha il prelievo alla fonte e fare un ulteriore sconto a chi evade. Sui messaggi che arrivano al 349-238-6666, ripeto per l'ultima volta, non cito quasi mai messaggi di complimenti, abbiate pazienza, è veramente inelegante. Quando ci sono messaggi di critica o di accuse, li citiamo per rispondere, tutto qua. La borsa. Ottimo l'inizio di settimana, più 3,67% Milano, che è la migliore, perché Parigi fa più 2,13%, Francoforte più 3%, Londra più 1,60%, l'America più 2,5%, euro vicino a quota 1,37%, e quindi dopo mercoledì, giovedì e venerdì, anche lunedì è una giornata di rialzi di borsa, con il balzo di Unicredit più 12,21%, rivede quasi un euro per azione, 96,5 a spanne, ha recuperato un 20-30% perché era arrivato fino a 70 centesimi di euro. Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, anzi dal 22 settembre ti dico subito che è salito, vai, del 46%. 46%, capirai che soldi che ha fatto chi ha comprato con il livello così basso, 46% dal 22 di settembre, giorno dal cui praticamente ha imboccato la strada, sì, del rialzo, sì, a parte qualche giornata di pausa. Questo però, ripeto, è un lavoro che bisogna saperlo fare, perché non è facile comprare quando un titolo continua a perdere 6, 7, 8% in borsa. Abbiamo spesso ricordato che Unicredit quotava ormai meno della metà dei mezzi propri, per cui... Comunque, Fiat più 6,21, Intesa più 5,70, anche Intesa non male, a 1,35 euro. Cosa ha recuperato? Sì, a questo punto bisogna fare ancora calcoli. Comunque, guarda, è facile perché era scesa a 99-98 centesimi, siamo a 1,35 euro, è quasi il 30% in più, insomma, cioè, su quel fronte. I motivi? L'asse franco-tedesco e che altro? Sì, oggi diciamo che l'attenzione si è puntata proprio sul settore delle banche, che ha fatto molto bene peraltro a Piazza Affari, perché nel resto d'Europa le banche in verità hanno registrato un andamento abbastanza contrastato e numerosi titoli anzi sono stati negativi per gran parte della seduta. Ovviamente è proprio appunto l'accordo franco-tedesco che fa dare speranza agli investitori, anche se ovviamente non se ne conoscono assolutamente i dettagli. Il fatto strano è che sono rimbalzati soprattutto i titoli delle banche italiane, molto più rispetto a quelle delle altre banche europee. Questo è molto strano soprattutto alla luce del fatto che, ricordiamo, venerdì scorso in tarda serata Fitch ha declassato l'Italia e la Spagna, e quindi questo avrebbe dovuto avere in teoria un impatto proprio sugli istituti di credito italiani. No, non mi sembra che se la sia affilata nessuno, Fitch, ma devo dire anche Moody's, no? Nel senso, la vera botta è arrivata con Standard & Poor's, ma che Moody's avrebbe potuto declassare il nostro debito era ampiamente atteso. E mezzi propri cosa si intende? Si intende quello che è la tua proprietà, gli immobili, quant'altro, i mezzi propri. Allora, vedere che un titolo quota la metà, cioè vale in borsa la metà di quello che possiede, insomma, te la dice lunga su quanto il titolo sia sottovalutato. Fiat più 6,21, diciamo Intesa più 5,70, ST Microelectronics più 5,70, Prysmian più 5,60, Boots Unicem più 5,5%, Saipem più 5,20%. Gli altri titoli dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri SMS. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, ancora sull'evasione fiscale, c'è chi scrive: ma chi evade per bisogno? Nessuno ha mai parlato della piccola evasione in questo programma, tant'è che gli studi di settore non ci hanno mai entusiasmato, perché l'artigiano e il piccolo che evade perché obiettivamente ha una pressione fiscale altissima non va capito perché è un reato, ma non è quello il problema del paese. Il problema sono i milionari. Ma ve la ricordate la lista che abbiamo letto la settimana scorsa del marito di Marcella Bella, dei suoi clienti, gente che dichiarava 48.000 euro lordi l'anno, 70.000 euro lordi l'anno, e aveva rispettivamente 8 milioni in Lussemburgo, 14 milioni in Liechtenstein. Ecco, quella roba lì, non l'artigiano che non sta dentro gli studi di settore, per favore. E allora, Micheli, bene anche tutti gli energetici e nel Green Power soprattutto. Sì. Sì, e nel Green Power in verità faceva meglio nel durante della seduta, poi sul finale ha fatto più 1,6%, quindi un po' peggio dell'indice. Diciamo che però sin dalle prime battute di questa mattina la società si è messa in evidenza, visto che dalle pagine di Repubblica, anzi per la verità dell'inserto Affari e Finanza, l'amministratore delegato Saraci ha confermato i target per il 2011, anche alla luce del fatto che la società ha una forte diversificazione geografica, è presente infatti in più continenti, cosa che le consente ovviamente di superare la crisi. Allora, sul settore auto invece abbiamo visto cose molto diverse, ossia Fiat Auto guadagna il 6,21%, mentre Fiat Industrial ha sofferto, quindi camion e trattori, ha sofferto un po' di più, per carità, ha chiuso molto bene, più 3,5%, però la metà di quanto non abbia guadagnato Fiat. Sì, anzi, Fiat Industrial per gran parte della seduta era addirittura negativa, poi con un colpo di reni sul finale, quando ha accelerato il listino, ha fatto più 3,5%. D'altra parte, nella prima parte della seduta i titoli erano penalizzati dal fatto che la concorrente svedese Scania ha annunciato che taglierà la produzione di camion in Europa tra il 10 e il 15% già a partire dal prossimo novembre. E questo visto che è stato registrato un forte indebolimento della domanda, ovviamente a causa della crisi che sta colpendo l'Europa e gli Stati Uniti, comunque una decelerazione della domanda che è stata presente anche nei paesi medio orientali. Bene, tutti gli energetici, Saipem più 5,21%, rivede 28 euro per azione, ma vorrei citare tra gli energetici anche A2A più 2,60%. Enel più 2,34%, Eni più 2,20%, e qui c'è il petrolio che è tornato sopra gli $84 al barile. Come mai come mai Monte dei Paschi guadagna pochino per essere una banca, lo 0,70%, c'è un motivo? Ma oggi le banche, ripeto, hanno registrato un andamento abbastanza contrastato. In Europa ci sono molte banche che anzi hanno registrato un andamento debole. È solo a Piazza Affari che si sono impennati numerosi titoli, in particolare Unicredit, perché il direttore generale Nicastro è sceso in campo dicendo che la banca non sta soffrendo nell'est Europa. Ricordiamo invece che proprio oggi è emerso che la banca austriaca Erst chiuderà l'anno con forti perdite proprio a causa di svalutazione che dovrà fare in Romania e Ungheria, e quindi questo ha dato in là una serie di ordini in acquisto su Unicredit, su Intesa, mentre altre banche sono rimaste al palo. La stessa Popolare dell'Emilia Romagna si è risollevata un po' sul finale, ma era abbastanza al palo, comunque alla fine ha fatto più 1,19%. MPS sì, è la peggiore, ha registrato un aumento solo dello 0,7%, ma non per motivi particolari o perché siano emerse. Sì, diciamo, è più, mi sembra di poter dire che oggi tutto il rialzo si concentra su Unicredit e Intesa San Paolo. Esatto. E come banche su cui c'erano molti timori per l'esposizione verso la Grecia, ma anche verso le obbligazioni italiane, ma anche verso l'est Europa. Evidentemente per ora, gesti scaramantici cercasi, per ora il mercato scommette che o pensa che non sarà così e che non sia stato così anche nel passato. Mi piace la battuta che chiaramente è riferita al test per uso di coca che ha chiesto Giovanardi a chi opera in borsa. Ha detto bisogna essere proprio strafatti di, scrive un ascoltatore, strafatti di coca per comprare un Unicredit a 0,80 o a 0,60. Comunque lì l'hanno comprata, e ripeto, più 46% Unicredit dal 22 settembre, statistica alla mano di Leonora Micheli. Andiamo sui titoli più sottili. Oggi in assoluto Archimedica si sta sgonfiando rapidamente, meno 38%. Eh sì, Archimedica si sta sgonfiando soprattutto perché i manager della società hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Non può essere infatti assicurata la continuità aziendale, quindi un brutto colpo per l'azienda, che invece era volata nelle scorse settimane, ricordiamo soprattutto sulle voci che ci fosse interesse da parte di investitori francesi. Una battuta su TXT e Solutions, miglior titolo più 28,4%. La società già presentato il piano industriale, ma soprattutto ciò che piace al mercato è la proposta di un dividendo che dovrà essere approvato dall'Assemblea, un dividendo straordinario di 4 euro per azione. Le azioni valgono in borsa, grazie al rialzo di oggi, 12 euro. Comunque l'Assemblea dovrebbe approvare appunto questa proposta di un dividendo straordinario di 4 euro per azione, nonostante tra l'altro lo stacco della cedola straordinaria, la società continuerà ad avere risorse finanziarie per effettuare acquisizioni che intende mirare proprio nei settori dell'uso, dell'abbigliamento e del retail. Grazie, grazie Eleonora Michele, Radio Colli Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR, poi parliamo del fatto impazza anche su internet perché Steve Jobs non avrebbe mai potuto essere italiano, men che meno napoletano. In realtà c'è una bella analisi su quello che ha permesso a Steve Jobs di diventare Steve Jobs, cioè quando un paese con tutti i limiti dell'America e i difetti però crede nelle idee. E ci facciamo una bella, un bel Golgota alle 18:07, per ora il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. E adesso parliamo, prima continuiamo diciamo con la spiegazione di borsa, perché molti messaggi che sono arrivati, ma obiettivamente forse in maniera improvvida, spero di no, perché sono sempre scaramantico. Abbiamo messo il gallo in apertura, infatti la quarta seduta di fila di rialzo, con rialzi soprattutto su Unicredit più 12-20%, Intesa San Paolo più 5,70%, come ricordava giustamente Eleonora Micheli, Unicredit dal 22 settembre ha guadagnato a questo punto il 46%, ed è insomma un rialzo di tutto rispetto, era arrivata, ricorderete, a 0,69, 0,70, mo siamo a 0,96, Intesa San Paolo era scesa a 0,80, mo siamo a 1,35 euro. E allora parliamo di quello che sta capitando, una volta tanto in positivo, sui mercati finanziari. 349-238-666 per i vostri SMS. E lo facciamo con Alessandro Platerotti, voce conosciuta, oltre che vice direttore del Sole 24 Ore. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Allora, voglio partire con un paradosso. Praticamente Moody's e Fitch declassano l'Italia. Tutti sono d'accordo nel dire, oggi è arrivata anche JP Morgan, che ci vorranno tra i 100 e i 200 miliardi di euro per salvare, ricapitalizzare le banche europee. 150, dice in maniera molto così pilatesca JP Morgan, eppure la borsa sta festeggiando da mercoledì. A questo punto il rialzo diventa qualcosa che è diverso da un semplice rimbalzo tecnico. Come mai? Ed è quello che speriamo tutti. C'è una congiuntura assolutamente favorevole in questo momento per la borsa, anche se bisogna tenere presente che la bussola dei mercati ha il nord sempre sulla prudenza in questo momento. Quindi qualunque andamento positivo va giudicato con le lenti di un momento di grande volatilità e di incertezza. E questo per quello che riguarda la borsa. Ma non è strano adesso che i 150 o 100 miliardi entusiasmino la borsa, o è proprio la sicurezza che questi soldi arriveranno che fa comprare titoli bancari? Allora, diciamo questo, ci sono come dicevo due binari paralleli su cui corrono notizie positive. Uno è quello del fronte politico. Abbiamo detto tante volte che la politica ha creato questo disastro, la politica deve portarci fuori da questa confusione, da questo caos di borsa, ed è quello che sta facendo, perché già da martedì scorso che è cominciato il rimbalzo dei mercati finanziari, quando Angela Merkel e il Fondo Monetario hanno cominciato a dire che le banche sarebbero state tutte salvate in Europa, che non ci sarebbero state altre vittime sull'altare della crisi finanziaria. Questo ha dato una grande fiducia e probabilmente per un colpo di fortuna anche ha coinciso con il momento più basso sotto il profilo tecnico raggiunto al mercato. Ricordo che martedì l'indice Standard & Poor's, che è il fanale su cui si muovono i mercati, ha toccato quota 1101 punti, ovvero un ribasso di oltre il 20% rispetto al massimo che era stato toccato il 29 aprile del 2011, poiché la performance si misura sempre dal punto più alto e non dal punto più basso. Per capire come stanno andando i mercati, è in atto indubbiamente un recupero. Ora la domanda è un recupero che si fermerà qua o un recupero che ci porterà fino a fine anno? La cosa nuova, l'elemento probabilmente più interessante del momento è che anche i più pessimisti fra gli analisti di borsa, quelli che fino a pochi giorni fa ci dicevano tenete i contanti nel portafoglio e non spendete sulla borsa, adesso hanno cominciato a vedere dei segnali positivi su due fronti. Il primo è quello della macroeconomia. Il rapporto che ha dato la Fed, che è stato dato dal Dipartimento del Commercio, al Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti venerdì, in cui ha evidenziato 103.000 nuovi posti di lavoro, ha fatto capire, oltre ad altri indici manifatturieri che hanno stati buoni, che l'America non è ancora in recessione. Semmai si continua a muovere, un po' come l'Europa, su quest'altalena fra stagnazione e recessione, ma non ci sono prove. Due, gran parte delle notizie negative erano state scontate dal mercato. Terzo elemento che dà un po' sostegno è, che questo è quello più, diciamo, più interessante sotto il profilo di borsa, ci sono i bilanci trimestrali delle grandi aziende americane e internazionali. Cominciano da domani con Alcoa, le previsioni sono positive, si parla di un aumento degli utili rispetto sia al trimestre precedente che a quello dello scorso anno, quindi evidentemente c'è quella congiuntura favorevole che aspettavano da tanto gli operatori per ricominciare a comprare in borsa. Poi un'ultima curiosità, questa ve la do a mo' di colore e di statistica: ottobre è un mese un po' magico per le borse, la gente non lo sa, ma dal dopoguerra ben 11 mercati dell'orso, quelli di cioè dove si perdeva più del 20%, hanno invertito la tendenza proprio nel mese di ottobre. E devo dire più modestamente che anche la nostra astrologa disse, visto che continuate a chiedermi al 349-238-6666, che a ottobre la borsa sarebbe salita. Quindi, per riassumere, da un lato notizie rassicuranti sul fronte politico europeo, Merkel, Sarkozy, con buona pace di Frattini che oggi sono un po' seccato, e poi il salvataggio delle banche europee e il caso Dexia, devo dire che rientra in questo filone perché nessuno ha neanche ipotizzato di lasciare Dexia al suo destino, e poi le notizie positive che tu ricordavi dagli Stati Uniti. Questi tre fattori. A questo punto però, Alessandro, immagino se ne occuperà domani anche il giornale, la domanda è, per chi ci ascolta soprattutto, che cosa fare, perché poi il timore storico è sempre di entrare quando il mercato è alto, uscire quando il mercato è basso, cioè la nemesi dell'investitore che si informa poi è di arrivare troppo tardi in un caso o nell'altro. Esatto, allora che cosa fare? Noi domani, il Sole 24 Ore, domani avrà 20 pagine speciali dedicate al risparmio e alla manovra. Queste 20 pagine noi affronteremo in modo analitico la situazione attuale, l'attuale livello degli indici, sia sotto il profilo tecnico che possiamo dire anche sotto il profilo politico, perché vedremo anche come la politica può condizionare in negativo o in positivo questo andamento positivo, questo andamento del momento che, diciamo così, ha riportato un po' di euforia. Sono 20 pagine importanti perché fanno veramente da bussola, e ripeto, una bussola che al nord ha sempre la prudenza, ma per chi vuole salire sulla carovana che porta verso sud, ovvero verso il territorio del rischio, ci sono gli spazi per salire sul carro. Quindi la rosa dei venti sui mercati finanziari, così aggiungo anch'io altro colore al colore, domani 20 pagine su Sole 24 Ore. Grazie al vice direttore. Grazie a voi, grazie Alessandro a voi. Platerotti, e noi invece restiamo su un tema a cavallo tra mercati e paese. Sta impazzando su internet uno scritto di un napoletano che dice perché Steve Jobs non sarebbe mai potuto nascere a Napoli, cosa gli sarebbe successo. È un parallelo su quello che ha permesso la fortuna di Steve Jobs in America e invece come funziona l'Italia. Ne ha scritto oggi anche Alessandro Penati sulla Repubblica, e di sabato, scusami, non di oggi, scusatemi. E allora parliamo proprio di questo. Ve lo consiglio, il sito c'è su napolinews24.net, si può vedere la storia di un immaginario Steve Jobs, che loro chiamano Stefano Lavori, Jobs. Se fosse nato a Napoli, se avesse creato il primo computer in uno scantinato, in un garage, insomma fa ridere ma fa anche piangere, perché si vede questa persona che non riesce a trovare i finanziamenti e i soldi perché le banche chiedono i soldi ai genitori, altro che Steve Jobs, e poi gli arriva a questo punto un accertamento anche della finanza perché è venduto due computer nello scantinato senza licenza, e quindi viene multato sia dalla finanza che poi anche dal verbale dei dei vigili urbani e poi ancora continua, cerca di imitare quello che ha fatto Steve Jobs, e a un certo momento gli bussa alla porta del garage anche la camorra. Questo è perché la campagna non è la California, se vogliamo parafrasare un famoso titolo. Oggi, in maniera ancora più analitica, dagliela con oggi, sabato, in maniera ancora più analitica, ne scrive su Repubblica invece l'economista Alessandro Penati, che è nostro ospite. Professor Penati, buonasera. Buonasera a voi. Intanto però vorrei capire, così che io faccio una chiosa sulla parte finale dell'argomento precedente, lei è d'accordo che forse i mercati possono conoscere in questo momento una leggera euforia, una stabilizzazione? Poi vediamo. La prima o la seconda? Ben sono d'accordo che ci sia una leggera euforia, nel senso che più che altro mi sembra, chiamiamolo, un rimbalzo tecnico. Però personalmente non vedo niente dei fondamentali tale per sostenere una ripresa duratura da questi livelli, quindi mi aspetto su diverse notizie, gli earnings surprise americani, il fatto che ci sia entusiasmo per questo piano di cui non si sa assolutamente nulla, di salvataggio delle banche, e quindi quando si scende tanto poi a un certo punto si compra anche. Se però mi chiede una singola ragione fondamentale per andare lunghi in questo momento, io non le trovo. Torniamo al tema perché Steve Jobs difficilmente sarebbe potuto diventare Steve Jobs o Stefano Lavori in Italia. Giustamente scrivono gli ascoltatori, non serve andare a Napoli, succede anche a Voghera, è vero, la burocrazia, l'accertamento fiscale, ecco, tranne la camorra forse, per ora perlomeno, tutto il resto c'è, e poi nel nord mica tanto, anche qua. Però dico, tutto il resto c'è, e a me ha stupito anche in questo racconto immaginario la difficoltà nel trovare qualcuno che ti anticipi i soldi, perché voglio dire, questi ragazzi immaginano di andare a vendere computer, tutti gli dicono sì, però per realizzarlo prima metti i soldi tu, poi ti diamo i soldi noi dopo che l'hai venduto, oppure anche i fondi europei, prima spendi i soldi poi te li rimborsiamo, insomma un altro mondo. Dopo il traffico, professor Penati, le faccio vorrei ripercorrere alcuni dei suoi punti e lei mi risponda perché da noi non sarebbe successo. 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia. Allora, vediamo di fare questo esperimento. Lo dico in maniera non disfattista, ci mancherebbe, però per capire perché l'America è l'America, con tutti i difetti, i limiti, con il disastro che ha creato Wall Street, con la bolla speculativa, però resta un continente dinamico. Professor Penati, iniziamo proprio dal... Ho 10 punti segnati per lei. Io le dirò, Steve Jobs ha fatto questo, lei mi deve rispondere anche brevemente cosa sarebbe capitato in Italia. Bravo. Allora, Steve Jobs ha creato la Apple dal nulla a 21 anni con un amico di 26. In Italia? In Italia molto probabilmente chi ha 21 anni o 26 sarebbe ancora a studiare economia. Oltretutto Steve Jobs ha lasciato il college e probabilmente aspirerebbe a lavorare per una grande impresa, per McKinsey, o per uno studio nell'azienda del papà, o meglio ancora una banca di investimento. Diciamo, mettersi in proprio in Italia mi sembra che sia più un incubo che un sogno. Allora, secondo aspetto, Steve Jobs ha cominciato l'attività in un garage pagando i fornitori con il credito ottenuto grazie a un ordine di computer che esistevano solo sulla carta. In Italia? In Italia, come diceva lei prima, prima di tutto in un garage non avrebbe avuto le certificazioni, il permesso, non avrebbe avuto i soldi per il notaio, la Camera di Commercio, il commercialista, eccetera, eccetera. E poi non avrebbe avuto i soldi per partire, nel senso che chi gli ha comprato il computer, rammento, gli ha comprato un computer sulla carta che non esisteva. In quel momento, purtroppo io sono vecchio e me lo ricordo, i computer non avevano i video e soprattutto erano delle cose molto grandi. Quindi immaginare un piccolo computer con un video, loro usarono il televisore come video, era una rivoluzione. Quindi qualcuno comperò un oggetto che non esisteva sulla carta, in pratica ha investito questo grossista su un'idea, e poi successivamente il venture capital che ha investito, In Italia sulle idee non si investe, si vogliono le garanzie reali. Questo... Sì, poi l'avrei voluto vedere Steve Jobs appunto a rispettare le norme di sicurezza del garage, a trovare i soldi per il commercialista, per il notaio, per la camera di commercio. Già iniziavamo a ragionare di altro che vendere, fatti dare i soldi prima del computer. Lì dovevi sganciarli subito i soldi. No, questo per far capire quando si parla di riforma a costo zero, di lacci, lacciuoli. Ma andiamo sul concreto. Steve Jobs ha portato la Apple in borsa nel 1980, praticamente 4 anni dopo la fondazione, per fare crescere il titolo. Da noi? Da noi, se va a guardare le statistiche, le società che vengono quotate mediamente sono, diciamo, l'anagrafe delle società è molto vecchia, cioè, esistono già molte volte da 20-30 anni e sono quote di minoranza, quindi sostanzialmente si quotano quote di minoranza perché l'azionista di maggioranza, che molte volte è pubblico, fa cassa, quindi la quotazione è parte della, diciamo, ristrutturazione finanziaria, diversificazione dell'imprenditore, assolutamente legittima, però difficilmente una società si quota per crescere, almeno. Cioè, da noi si quota per far cassa, lì si è quotata piccolissima per trovare i capitali per diventare grande. Da noi si quota già spesso grande e matura. Oh, mi raccomando, non tutte. Abbiamo raccontato in questi anni casi bellissimi di società che si sono collocate in borsa in questo modo e di persone che hanno avviato un'idea dal nulla, però insomma stiamo ragionando complessivamente del paese. Nel 1985 poi Steve Jobs viene estromesso dall'Apple, pur avendola fondata, pur avendola creata, viene cacciato. In Italia? Questa è trovo la differenza principale. Tutte le società in America e in Italia sono familiari, nel senso che c'è un imprenditore che nasce. A un certo punto negli Stati Uniti però per farla crescere si perde il controllo. Quindi l'imprenditore decide che preferisce avere una fetta piccola di una torta grande, perde il controllo e la gestisce perché è più bravo. Ecco, in Italia appunto si quotano soltanto quote di minoranza anche per preservare il controllo. L'altra faccia della medaglia è che, pur avendo Steve Jobs creato una società di enorme successo, ha perso però il controllo tramite la quotazione, e gli azionisti a un certo punto hanno deciso che qualcun altro era più adatto di lui per gestire la società. In altre parole, la gratitudine non fa parte del capitalismo, della meritocrazia. Altro aspetto, Steve Jobs poi crea due società, la Next e la Pixar. La Next va male, forse era troppo innovativa. La Pixar comunque viene venduta alla Disney per 8 miliardi. Lui in praticamente con questi 8 miliardi poi si compra l'Apple. Da noi cosa avrebbe fatto? Ma da noi molto probabilmente, se guardiamo a tutti imprenditori o manager che o sono liquidati, i manager sono liquidati e ricevono, diciamo, liquidazioni multimilionarie, o sono imprenditori che fanno il cash out, di solito non creano una nuova impresa, ma li investono da qualche parte. Molte volte fanno gli immobiliaristi, oppure fanno i finanzieri e acquisiscono partecipazioni. Cioè, non mi ricordo di qualche grosso manager uscito, forse anche qua, ripeto, un paio di eccezioni ce le ho in mente, ma tipicamente l'imprenditore che quota o fa il cash out perché ha venduto un fondo di private equity utilizza la cassa per fare il finanziere, non crea una nuova società. Veniamo all'ultimo aspetto. La Apple oggi vale circa 360 miliardi, praticamente tutto il PIL dell'Argentina, per dare un'idea. E i suoi 4 top manager hanno in media uno stipendio di 530 mila euro, più 560 mila euro di bonus garantito. Da noi? No, da noi la parte, diciamo, garantita o lo stipendio sono molto più alti, e soprattutto c'è una enorme sproporzione tra la parte fissa e la parte diciamo bonus, che però è, nel caso di Apple e in molte società americane, è interamente pagata in azioni ed è molto variabile nel tempo, nel senso che è basato sui risultati. Allora, una cosa la voglio dire adesso che abbiamo fatto questo racconto: è proprio perché è così difficile in Italia per le banche, per i controlli, per la burocrazia, per la mentalità e tutto quello che abbiamo raccontato, è proprio perché è così difficile in Italia che secondo me sono degli eroi, e lo dico senza retorica, gli imprenditori italiani. C'è chi cita Renzo Rosso, Del Vecchio, possiamo citare migliaia, che riescono a creare un'impresa da un garage, da un'officina, da uno scantinato, da un capannone e diventare imprenditori, perché è tutto più difficile qui che negli Stati Uniti. Grazie al professor Alessandro Penati. Chiudo con una battuta, scrive un ascoltatore: Steve Jobs ha detto stay hungry, stay foolish. Stefano Lavori avrebbe detto esco pazzo perché tengo fame. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.